questa vita è un filo sottile tracciato in equilibrio tra amore e follia, e quando soffia forte di notte quel vento non resta che lasciarsi andare al momento, seguirne senza indugio la scia. Sfiniti, partiti, storditi da un avvolgente sguardo, fuggiti lontano tenendosi per mano nemmeno una frase, nemmeno una parola, portandoci in grembo il succo di una lacrima. E poi sperare ancora, sentire l'incanto, la gioia in un momento e lasciarsi rapire, sentirsi addosso il dolce respiro del mare e accorgerci di noi. E mentre ti innamori rimango travolto dalla dolcezza dei tuoi capelli sul collo, che mille volte ancora vorrei accarezzare perché ti sento mia. Stavo parlando di te, stavo pensando di te, questo tempo non vuole aspettare per stringerti forte a me. Ai tuoi occhi mi sembra di volare sereno in due specchi che danno forma a un sogno che vola lontano, che mi tramuta in goccia d'oceano blu scuro, e il cuore mio non trema più in vano e batte solo per te, solo per te. Solo te, solo te, solo te.